festival reale che ha molto a che fare con la creatività femminile. È prevista anche la presenza degli altri autori dei lavori presentati? I registi sono tutti presenti normalmente, in alcuni casi abbiamo anche delle presenze, per così dire, straordinarie. Per esempio è in programma un film di Vito Rubiani che si chiama I Am Marion Bin Laden, e Marion Bin Laden sarà presente. Lei è un personaggio piuttosto interessante perché, come avrete capito, fa parte della famiglia, della grande famiglia Bin Laden, ma è nello stesso tempo una sportiva, nel senso che lei pratica nuoto estremo, ha attraversato a nuoto la Manica, il Tamigi e così via, ed è anche una grande attivista per i diritti dei profughi palestinesi in varie zone del Medio Oriente. Poi, per esempio, ci sarà un altro documentario sulla questione della difesa dei diritti umani e civili ad Haiti, che è stato promosso da Martina Colombari, che quindi sarà presente. Quindi le presenze ci sono importanti. Per tutti i riferimenti e i dettagli c'è il sito internet, ho visto, visionidalmondo.it. Esatto, lì dovreste trovare tutto quello che vi può interessare per avere ulteriori informazioni, troverete anche online il catalogo, i trailer dei film e così via. Io penso che ci saranno sempre dei film e degli argomenti che possono interessare, ripeto, dei pubblici anche molto diversi, insomma, per quanto riguarda orientamento, cultura e livello di cinefilia, per così dire. Quinta edizione del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, Immagini dalla Realtà, a Milano dal 12 al 15 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Fabrizio Grosoli. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Grazie a tutti voi, a presto.